svolgeranno a San Casciano in Val di Pesa i quattro appuntamenti a cura dell'associazione Progetto Vivere Vegan. Nella rassegna Ricomincio da Vegan, incontri in biblioteca. Il prossimo sabato 23 febbraio, Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche, con Roberto Politi. Sabato 2 marzo, Diventare Vegan, con la dottoressa Anna Romano. Sabato 9 marzo, Il pasto gentile, con Giuseppe Coco. E sabato 16 marzo, La cucina etica, con Roberto Politi. Gli incontri ad ingresso libero si terranno presso la biblioteca comunale alle ore 17. Per maggiori informazioni visita il sito viverevegan.org o il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com.